building a wall between friends, a wall that justifies any means for their ends, a wall between Semites, rich and poor, brothers and sisters from not so long before, many feet thick and 20 feet high. No one can look through it and into the eye of a person you might know, to whom you might confide. Avverte l'autore a conclusione del suo libro: se questa lettura avrà mutato anche di poco il vostro modo di leggere i giornali e più in generale di percepire la realtà, vuol dire che è servito a qualcosa. Se poi viene di traverso il cappuccino, pazienza, è un effetto collaterale. Lo scrive Aldo Giannulli e il volume segnalato da Parole in Breve si intitola Come funzionano i servizi segreti, dalla tradizione dello spionaggio alle guerre non convenzionali del prossimo futuro, uscito pochi giorni fa per Ponte alle Grazie. Intanto una premessa. Giannulli, storico e consulente delle commissioni strage sul caso Mitrokhin, per limitarci solo ad alcune delle sue qualifiche, non ha lavorato su chissà quali documenti riservati, ma parte da una constatazione. In Italia, e non solo, indagini giudiziarie, ricostruzioni, materiale declassificato e una pubblicistica crescente offrono tutti gli strumenti per comprendere la vita degli apparati che fanno della riservatezza la propria filosofia di comportamento. Aggiunge però l'autore che a torto l'influsso dei servizi segreti su politica, società, ricerca ed economia è stato scarsamente sondato da storici e accademici. Eppure, a leggere le oltre 400 pagine di questo libro, sembra un errore non essere andati a scavare sui condizionamenti che strutture così recenti, le maggiori agenzie non hanno più di qualche decina di anni di età, hanno avuto sulla storia recente. Dagli scandali privati alle bufere giudiziarie, dalle deposizioni di capi di Stato alle strategie di indebitamento dei paesi in via di sviluppo, sembra che non ci sia settore in cui l'intelligence non sia presente. E quando non lo è quella pubblica, legata ai governi, lo è quella privata che, al pari delle agenzie di contractors, ha iniziato a imporsi al di là del mondo aziendale ed è stata vivacizzata da ex appartenenti ai servizi governativi. Insomma, il libro di Giannulli è un utile caleidoscopio su un mondo che non è fatto da tanti James Bond, peraltro ispirato a un personaggio reale. Anzi, l'avventura delle spy story è quasi assente, o quantomeno molto limitata, dal quotidiano dei servizi, che invece sono ben focalizzati sull'informazione, o meglio, su raccolta, catalogazione, ricercabilità e inquinamento delle informazioni. Gli agenti agiscono ai margini dei riflettori e della legalità, scavalcando spesso e volentieri il confine che separa il lecito dall'illecito, fantapolitica, mica tanto se si vanno a indagare, come il lettore è aiutato a fare da Giannulli, i tanti fatti contenuti nel libro, tra cui lo scandalo Guillaume in Francia, il caso Profumo in Gran Bretagna o l'affare Kennedy negli Stati Uniti. Per restare in Italia si pensi ai casi Piccioni, Colombo, Tambroni, Pacciardi, fino, forse, ai fatti del 92-93 tra Mani Pulite e stragi. That's such a cost. Stanno costruendo un muro, canta David Rovitz in sottofondo a queste parole su Giamendo. Il muro, però, una volta chiuso il libro, sembra che lo abbiano già costruito e che non sia mai caduto, fine della guerra fredda o meno. History books will someday recall before apartheid was ended, they were building a wall.